professor Malter ci ha condotto nelle reazioni dei contemporanei, e io invece avrò il compito di ritornare indietro nel passato, ma sempre tenendo fermo il problema del male radicale. Prima di tutto voglio semplicemente dire quello che non sarà questo mio intervento, cioè io non mi propongo di fare un'analisi, non abbiamo tempo, del capitolo quarto della religione, in particolare i paragrafi 1, 2 e 3 della seconda parte, che concernono per l'appunto il falso culto di Dio in una religione statutaria. Li darò per conosciuti. D'altra parte neanche intendo fare uno studio delle fonti dirette di questi testi. Questo studio è già stato fatto da Boateč. Allora farò qualcosa di molto più sommario, cioè mi propongo di costruire una sorta di scenario per avere un confronto tra alcune figure del Mysterium Iniquitatis, che non sono soltanto delle figure, perché la mia tesi è che queste figure sono in realtà molto ricche di sostanza concettuale, e la posizione di Kant, e quindi organizzerò questa relazione su tre scene. Una prima scena ha luogo nell'Università di Cambridge intorno al 1680, nel 1680. La seconda scena è un flashback e ci riporta invece a Wittenberg nel 1521, e infine torneremo sulla scena degli anni di grazia 1793-94, che sono gli anni della pubblicazione della religione e di quel breve scritto sul quale concluderò l'esposizione, Das Ende aller Dinge, che è del 1794. Ebbene, è 83, no? Cioè sono gli anni del terrore. La prima scena, perché io parto da Cambridge nel 1680, ma semplicemente per il fatto che le indagini sul Mysterium Iniquitatis in un periodo come la fine del Seicento, ma anche dopo, non erano affatto soltanto il prodotto della disordinata fantasia dei fanatici, degli Schwärmer. E io ho collocato la scena a Cambridge e in un colloquio molto intenso tra Sir Isaac Newton e il filosofo di Cambridge, il filosofo platonico Henry Moore. Ora, sia Henry Moore che Newton si occupavano appassionatamente della interpretazione delle profezie, Daniele dell'Apocalisse in particolare, e quindi della figura e della cronologia dell'Anticristo. Ora, in una lettera che scrisse il 16 agosto 1680, Henry Moore dice che aveva appena dato a Newton il suo trattato sull'Apocalisse, Apocalipsis Apocalypseos, stampato proprio in quell'anno, e che dopo averlo letto, Newton venne nella mia stanza e, mentre di solito, dice Moore, il suo contegno è melanconico e pensieroso, in quel momento egli appare to be in a manner transport, no? Cioè un atteggiamento molto poco contegnoso. Prima il suo pieno consenso al libro di Moore. Ora, Richard Popkin commenta questa lettera di Moore dicendo che essa fu scritta poco dopo la scoperta newtoniana del principio di gravitazione universale, ma alcuni anni prima della sua pubblicazione. E Popkin dice: Newton aveva allora 38 anni e non era affetto da prematura senilità. Stava al culmine del suo genio creativo e si occupava con altrettanta vitalità della interpretazione millenaristica delle profezie bibliche e della conoscenza del mondo naturale. Ora, come voi sapete, Newton ha scritto su queste cose una enorme quantità di pagine che hanno avuto un destino incredibilmente stupido, no? Sono state vendute e disperse negli anni venti, ma soprattutto queste sue posizioni non sono state studiate a fondo fino agli ultimi anni. Adesso veramente, dopo i saggi di Frank Manuel, di Charles Webster, di Popkin che ho già citato, di James Force, noi abbiamo un quadro più organico e interessante della teologia e del millenarismo di Newton. Sicuramente quando Newton si occupava di queste cose non era affetto da senilità, ma neanche da entusiasmi giovanili, perché era nel pieno della sua maturità. Quanto a Henry Moore, Henry Moore apparteneva alla generazione precedente, era nato nel 1614, aveva quasi 30 anni più di Newton, e non poteva certo essere accusato di fanatismo. Anzi, Moore aveva attraversato tutta la rivoluzione inglese rimanendo coerentemente legato alla Chiesa d'Inghilterra e al re, tuttavia mantenendo la stima dei suoi avversari puritani, a tal punto che Cromwell nel 1654 gli offrì il rettorato del Christ College di Cambridge. Moore lo rifiutò e due anni dopo pubblicò l'Enthusiasmus Triumphatus, il cui titolo è chiarissimo, polemica contro il fanatismo. Però è anche vero che dopo la restaurazione la polemica di Moore continuò, e nel 1664 egli pubblica appunto il libro intitolato A Modest Inquiry into the Mystery of Iniquity, i cui temi sono ripresi nel 1681 nella Plain Exposition of the Prophecies of Daniel, eccetera, eccetera. Ora, in questo quadro più tardivo, Moore polemizza molto meno contro i fanatici, quinto monarchisti, e invece molto di più e principalmente contro Grozio, che aveva commesso la eresia di identificare il quinto regno della profezia di Daniele 2, il regno eterno che non avrà fine, era stato identificato da Grozio con Roma, i romani e poi la Chiesa e l'impero di Roma. E Moore si scatena contro la eresia di Grozio, non abbiamo il tempo qui di approfondire questa questione, proprio perché ritiene che in quel modo Grozio libera la Chiesa romana dalla evidenza di essere essa l'Anticristo. Ora, dunque, sia Newton che Moore erano dei moderati politicamente, erano membri devoti della Chiesa d'Inghilterra, ma sicuramente su questa questione dell'Anticristo aderivano alla tradizione riformata e esprimevano il loro genio in forme diverse, mentre Moore, un filosofo platonico, tendeva a definire the idea of anti-Christianism, e lo ha fatto soprattutto nella Modest Inquiry. Newton invece, secondo il suo genio matematico, si dedicava soprattutto ai calcoli sulla cronologia del regno dell'Anticristo. Ora, la cosa che va detto è che sia Moore che Newton ritenevano che l'Anticristo non fosse un personaggio scatologico della fine dei tempi, ma fosse una realtà presente, e proprio per questo bisogna calcolarne i tempi del regno, perché siccome il suo regno, secondo gli altri calcoli di un altro cattedratico di Cambridge, Joseph Mead, il regno dell'Anticristo secondo l'Apocalisse doveva durare 1260 anni, dopodiché ci sarebbe stato il secondo avvento di Cristo, e quindi era importantissimo stabilire la data di partenza di questo regno. E Newton stesso ha mutato poi la sua cronologia nel corso del tempo. Ecco, però va anche detto che Newton non si dedicava soltanto ai calcoli, no? Cioè il suo interesse per le profezie era era profondo e noi abbiamo ora un documento nella breve introduzione, uno scritto sull'introduzione del trattato sull'Apocalisse, che fa parte dei manoscritti che sono a Gerusalemme, che è stato pubblicato da Frank Manuel nel suo saggio sulla religione di Newton. Ora, e questo è attribuito più o meno agli anni 1670. Qui Newton dimostra un interesse vivissimo e fa vedere anche come la conoscenza profetica abbia un carattere antitetico e drammatico e decisivo. Qui Newton contrappone esplicitamente la scienza degli ipocriti. Gli ipocriti possono ben discernere il volto dei cieli, dice, ma non sanno discernere the signs of the times, i segni dei tempi. È interessante, no? La scienza del cielo, che era la sua astronomia, può diventare ipocrita se non si associa alla conoscenza dei segni dei tempi. E Newton sa che questa conoscenza profetica crea inevitabilmente opposizione. Infatti, poco dopo dice, può darsi che dicano di te che sei un bigotto, un fanatico e un eretico. They will call thee, it may be, a bigot, a fanatic and heretic. E quindi Newton sapeva che occupandosi delle profezie poteva essere poi considerato per l'appunto un fanatico, uno schwärmer, direbbe Kant. E questo avviene perché l'interpretazione della profezia è sempre viziata dalla inclinazione degli uomini, dice Newton, che sono per lo più condotti dal pregiudizio, dall'interesse, dal vanto umano e dall'autorità della Chiesa di cui fanno parte. Allora noi vediamo qua che lo studio del Mysterium Iniquitatis porta subito il tema della polemica con la Chiesa deviante che si oppone alla vera interpretazione delle profezie. Nella Modest Inquiry Moore aveva invece dato un'idea precisa di che cosa sia il Mysterium Iniquitatis, dicendo che l'Anticristo è il capovolgimento dei tre ruoli del Cristo, profeta, sacerdote e re. E quindi il mistero iniquitatis per Moore poteva essere configurato come un ecclesiastic anti-Christian empire, no? Cioè è un kingdom ecclesiastic, è nello stesso tempo una chiesa e un regno. Naturalmente per Moore questa era la Chiesa di Roma, ma sia per lui che per Newton l'estensione dell'Anticristo era più ampia, no? Perché nella Modest Inquiry Moore molto acutamente dice che è anticristiano ogni pretesa di monopolizzare lo spirito di profezia, e chiaramente questa pretesa di monopolio non era soltanto quella della Chiesa di Roma, ma poteva benissimo essere quella di uno Stato assolutista. Io per conto mio ritengo che in questa affermazione di Henry Moore, che nel 1664, ci sia una polemica con Hobbes, no? E con la pretesa di monopolio della profezia e dell'interpretazione della scrittura da parte dello Stato. Ora, per Newton le cose vanno in modo un poco diverso, perché veramente Newton era assai più eretico di Moore, perché Newton pensava che la grande deviazione ecclesiastica fosse data dalla coincidenza dell'instaurarsi di un potere temporale e della elaborazione dottrinale della ortodossia. Cioè per Newton il regno dell'Anticristo si insinuava già nella formulazione del dogma trinitario. Per questo si capisce abbastanza bene, poiché Newton non abbia mai pubblicato i suoi scritti sulle profezie e abbia invece mandato allo sbaraglio il suo più giovane collega, come d'altronde racconta bene James Force. Ora, in questa maniera noi possiamo ora passare alla seconda scena. Cioè facciamo un passo indietro e veniamo al prototipo di queste raffigurazioni moderne dell'Anticristo, che è proprio quello scritto di Lutero dal titolo complicato Responsio ad Librum Ambrosi Catarini eccetera eccetera de Anticristo, che è stato scritto a Wittenberg in un momento più drammatico della vita di Lutero, cioè poche settimane prima della comparizione alla dieta di Worms. È un'opera di una estrema violenza e proprio per questo si capisce anche che poi sia stata in certo qual modo emarginata nei tempi in cui la teologia era ben insediata nello Stato luterano e poi più tardi quando la teologia prese le vesti del tranquillo buon senso liberal protestante. Però questo scritto di Lutero in realtà ha uno straordinario vigore concettuale e può essere preso come un esempio non solo di critica religiosa ma anche di critica sociologica. Ora, quali sono i tratti di novità, no, della concezione di Lutero del mysterium iniquitatis? Sono questi. In primo luogo, nello scritto di Lutero, ma come in moltissimi documenti di quella stessa epoca, le figure escatologiche entrano, irrompono sulla scena della storia contemporanea. Questa è una frase di Reinhard Koselleck, no? Che in Vergangen und Zukunft dice per l'appunto che in questo momento l'escaton irrompe nella storia contemporanea. E quindi Lutero dice queste parole, quelle che commenta Daniele 8, riguardano noi, tutto ciò che predissero Daniele, Cristo, Pietro, Paolo, Giuda e Giovanni nell'Apocalisse occorre che si compia tra di noi, no? Cioè l'anticristo diventa una figura del presente storico, come abbiamo visto sarà ovviamente poi nel 600. Secondo carattere è che, discostandosi dalle interpretazioni tradizionali, Lutero non identifica l'anticristo con una singola persona ma con un'istituzione, no? Cioè vi sono alcuni che interpretano questo e descrive come se si trattasse di una persona ben definita, dimostrando di ignorare che i profeti sono soliti indicare la totalità di un qualche regno attraverso una sola persona. Quindi l'anticristo è, leggo il testo latino, totum corpus et caos hominum impiorum totamque successionem regnatium. Terzo carattere è che l'anticristo non è una potenza esterna. Lutero dice, molti hanno pensato che l'anticristo fosse il turco, ma non è così. Daniele non parla certo dei turchi, che sono certo iniqui ciechi, ma qui si parla della sovranità che si esercita sopra il popolo di Dio e di coloro che siedono al posto di dottori e vescovi. De eo principatu qui in populo dei geritur, no? Quindi l'anticristo è una figura assolutamente interna al popolo di Dio. Quanto al concetto, alla struttura concettuale del mistero iniquitatis, si può riassumere in questo modo. L'anticristo è una potenza che si instaura in un processo che è occulto di sostituzione, di inversione e simulazione. Quindi si costruisce per mezzo dell'inganno, fallacia, e ha una capacità distruttiva superiore a quella delle armi mondane. Menzionerò rapidamente alcuni passi di questa argomentazione. Innanzitutto, allora, il regno dell'anticristo, dice Lutero, non si configura come negazione aperta dell'Evangelo, ma come una aggiunta di glosse e statuti, statuta, termine chiave, perché è proprio quello che poi ritroviamo nella definizione kantiana della religione statutaria. Non enim evangelium negabunt, sed iuxta evangelii verba suis additis tum glossis tum statutis, paulatim et insensibiliter a regia via fidei abducent in secta soperum, eccetera, eccetera. Quindi si tratta, dice Lutero, di un regno delle apparenze. Qui commenta il capitolo 8 di Daniele, in cui si parla di un rex potens facebus, e quindi il grande tema è quello del potere delle apparenze. Lutero ne enumera ben 12 di queste apparenze, non le percorreremo tutte quante, diciamo soltanto per capire il senso del testo che la prima consiste nella moltiplicazione dei ruoli scenici, lo spettacolo della gerarchia e dell'apparato ecclesiastico. Personatus infinitis modis et partibus multiplicatus. lasciamo le altre e per la nostra personale umiliazione menzioniamo semplicemente la dodicesima di queste figure dell'apparenza, perché essa è l'università. Quel caos, quella porta spalancata dell'inferno, ragguardevole per l'apparenza fuori dal comune, parlo delle università, dove si comincia con spergiuri e abusi del nome di Dio e si prosegue dedicandosi senza ostacoli né freni ad ogni sorta di empietà. Quello che ci interessa in particolare è che Lutero ha evidenziato, posto al centro, l'apparenza religiosa, no? Perché di questo si tratta. Quindi la designa in termini superstizio e ipocrisis, no? Abbiamo visto poi in Newton il termine ipocrisia, ipocrites è fondamentale. Allora dice Lutero, infatti la superstizione e l'ipocrisia, che è parvenza di pietà e apparenza di devozione, religionis faces, è la più potente, la più attraente, perciò la più nociva di tutte le parvenze o le apparenze. Le apparenze sacre, giacché prefigurano le cose divine e offrono traccia delle cose eterne, catturano e traggono in inganno anche i più saggi, i più santi, i più forti e persino gli eletti. At sacre species, quia divina simulant, et eternarum rerum preferunt indizia, etiam sapientissimos, sanctissimos, potentissimos, atque ideo electos etiam capiunt et fallunt. Naturalmente questo processo della potenza dell'apparenza, rex potens facebus, si sviluppa, no, per sostituzione, per cui al posto della fede in Cristo vengono insegnate delle cerimonie, pro fide Christi docere cerimonias, et pro spiritu statuere traditiones humanas, cioè la sostituzione dell'Evangelo con le cerimonie e le tradizioni umane. E questa inversione, è una inversione, culmina ovviamente poi con la sostituzione vicaria. Qui Lutero naturalmente lavora sul testo basilare delle dottrine dell'Anticristo, che è la seconda lettera ai Tessalonicesi, capitolo 2, versetto 4, dove appunto è scritto «Videmus hominem peccati et filium perditionis sedere in templo Dei ostendentem se quasi sit Deus». E quindi l'Anticristo è proprio quello che prende il posto di Dio, siede nel Tempio di Dio e mostra se stesso come se fosse Dio. Essere vicario di Cristo non è dunque sedere al posto di Dio, dice Lutero, sedere al posto di Dio non è mostrare se stesso come se fosse Dio, forse dubiti ancora che si sia adempiuta la profezia di Paolo. Ora, la potenza delle apparenze è distruttiva, e qui Lutero sottolinea il paradosso che questa potenza, mysterium iniquitatis, non dipende dall'intelligenza, dalla ricchezza, dalla forza, ma solo sta per l'apparenza con la quale ottiene che le intelligenze di tutti, le forze di tutti siano schiave nel suo arbitrio. Ma proprio per questo è radicalmente distruttiva. Daniele 8, 24, et vastabit robustos et populum sanctor. Daniele non parla qui di una distruzione e corruzione violenta, come quella dei tiranni che rovinano terre e regni con la guerra e la forza delle armi. Quale il re, tale è anche la distruzione che compie. Egli non distrugge città né regioni, ma quel che le apparenze e gli inganni possono e sogliono distruggere. Tutto ciò che è l'opposto degli inganni e delle frodi, vale a dire la verità e la parola di verità, e lo spirito e la semplicità, cioè la fede in Cristo e il regno delle coscienze rette. Bonarum conscienziarum regnum, che Cristo chiama regno di Dio, regno dei cieli, regno della verità. Ora, in realtà, Lutero aveva già formulato questo concetto alcuni mesi prima, quando aveva scritto quelle pagine, il pamphlet, in difesa della sua azione di aver bruciato nell'autunno del 1520 i testi del diritto canonico e anche la bolla Exsurge Domine. Quindi, in questo scritto, in tedesco e poi subito tradotto in latino, Lutero aveva sottolineato questa struttura fondamentale del mistero iniquitatis, che è il capovolgimento, no? Il capovolgimento. Il capovolgimento per cui ciò che è ottimo diventa ciò che è pessimo. Sic ad enim ab initio omnium creaturarum, semper pessima queque ex optimis quibusque nata sunt. Così Lucifero è nel coro degli angeli e compie il massimo peccato. L'uomo è nel paradiso terrestre, quindi perfetto, e qui maximum peccatum et damnum. Il Cristo, il figlio di Dio, non è forse stato crocifisso nella santa città di Gerusalemme? Santa città di Gerusalemme. Ma ora Dio non ha benedetto nessuna città al mondo colmandola di grazie di santi quanto Roma. Perciò essa deve anche fare, in guisa di ringraziamento verso di lui, più grave danno come Gerusalemme e dare al mondo il vero anticristo. E così è certamente, e tutto avviene sotto il nome e l'apparenza di Cristo, cosicché nessuno lo crede finché egli stesso non venga ad illuminare queste tenebre con la luce del suo avvento. Ita nunc revere fit ut omnia sub Dei et Christi nomine et specie fiant ut nemo credat. Donec ipsem et veniat abscondita tenebrarum lumine sui adventus illuminaturus. E con questa immagine illuministica possiamo passare senza troppe forzature alla ultima scena di questo resoconto. L'ultima scena, dunque, la potrei mettere sotto il titolo di una frase della religione di Kant, dove è detto nel terzo capitolo, la seconda parte, che concerne la historische Vorstellung, della rappresentazione storica del dominio del buon principio sulla terra, e che dice che l'apparizione dell'anticristo, il chiliasmo, l'annuncio della vicinanza del fine del mondo, possono, dinanzi alla ragione, vor der Vernunft, a trovare il loro buon significato simbolico, ihre gute symbolische Bedeutung annehmen. Però naturalmente io non mi fermerò soltanto alle queste citazioni dell'Anticristo. Questa è la prima, l'altra sta nell'ultima pagina di Das Ende aller Dinge. Il problema che pongo è questo, e darò delle tracce solo molto sommarie in vista di una discussione. La domanda è questa: in quale misura nelle pagine della religione, nei limiti della semplice ragione, permane la traccia di quelle figure del Mysterium Iniquitatis, le quali sono state costantemente presenti nel corso di due secoli in quell'ambiente religioso in cui Kant è nato ed è stato educato? Io vorrei dire che se il Mysterium Iniquitatis è certamente un mistero, però questa figura ha una forte struttura concettuale, una struttura concettuale che è quella che abbiamo visto, che è quella della inversione, del capovolgimento, della potenza dell'apparenza, allora non è difficile trovare delle tracce, no? Nel libro di Kant del 1793. Gli elementi di analogia talvolta sono persino di continuità lessicale, abbiamo visto, no? Come nel caso degli statuti, no? L'idea degli statuti della Chiesa che vengono sostituiti all'Evangelo. Quindi è ovvio che queste affinità si possono trovare soprattutto leggendo la sezione quarta, no? E in particolare i paragrafi che trattano della illusione religiosa, paragrafi 1 e 2 della seconda sezione, e il paragrafo terzo che si intitola Pfaffentum als einem Regiment immer in Afterdienst des guten Prinzip. No, regiment, no, questa è una parola chiave, perché in questo paragrafo Kant fa vedere come il falso culto di Dio si instauri anche come istituzione, no? E usa la parola regiment. E qui Kant descrive la dimensione non soltanto individuale, ma appunto collettiva istituzionale del falso culto o culto servile di Dio. E questa si ripresenta continuamente nel polimorfismo delle religioni. Dice Kant, dallo sciamano dei Tungusi al prelato europeo che governa insieme e la Chiesa e lo Stato, e questo è un dato interessante, noi abbiamo qua il parallelismo e poi vedremo anche la distinzione. Ora, allora cosa vuol dire questo? È perfettamente evidente che per Kant il falso culto, culto falso e servile, e il suo regime clericale si reinsediano per l'appunto all'interno del dominio del buon principio, no? Cioè, allora qui abbiamo esattamente quello che è il carattere principale del Mysterium Iniquitatis, no? Cioè l'insediamento del falso culto non all'esterno, non sono i pagani, non sono i turchi, ma è dentro che si verifica questo capovolgimento. C'è però da dire un'altra cosa, cioè tutto il libro di Kant a partire dalla seconda parte è costruito in base allo schema del conflitto, Kampf, no? E allora evidentemente qui c'è un'altra analogia, perché tutte le dottrine del Mysterium Iniquitatis sono sempre state delle dottrine che costruivano una veduta della storia universale e della storia ecclesiastica sotto forma di conflitto. Ma quello che più conta è che già nella prima parte Kant ha definito il male radicale per l'appunto come struttura di inversione e capovolgimento. Si tratta, specifica chiaramente Kant, lo abbiamo appena sentito nella relazione precedente, il male non è affatto qualcosa che dipenda dagli istinti naturali, non si determina a livello della vitalità umana, non si determina neanche a livello della socialità umana, l'amore di sé nel confronto con gli altri, si determina al livello supremo della disposizione alla personalità, di Anlage für die Persönlichkeit. In pieno accordo con la tradizione paolinica e agostiniana, Kant sottolinea continuamente la natura spirituale del male, e abbiamo visto come Schelling, meglio di Fichte, avesse capito questo elemento. E dopo aver enunciato la inversione dei moventi dell'agire morale, Kant conclude che questo male è radicale perché corrompe, verdirbt, il fondamento di tutte le massime e dunque può essere denominato Verkehrtheit des Herzens, no? Qui abbiamo proprio il termine centrale, è quello del capovolgimento, dell'inversione. La inversione è nello stesso tempo un nascondimento, un inganno, no? Perché il male radicale non è la trasgressione della legge, è l'applicazione legalistica della legge che però risponde a delle motivazioni che non sono più quelle morali. E quindi qui siamo esattamente nella figura del Mysterium Iniquitatis. Ma questo male radicale che nella prima sezione Kant indaga a livello della personalità e del cuore si manifesta poi collettivamente nella quarta sezione per l'appunto sotto forma di falso culto. Io ricordo che già molti anni fa Paul Ricoeur diceva le mal radical se la fosse glisse, no? E su questo poi ha scritto in seguito. Detto questo, e mi avvio alla conclusione, dobbiamo però anche sottolineare gli elementi di divergenza rispetto alle precedenti elaborazioni del Mysterium Iniquitatis. Io ne segnalerò un paio, tenendomi sempre a quelli che sono i caratteri strutturali del Mysterium Iniquitatis, cioè prima di tutto il carattere polemico di queste rappresentazioni, conflittuale e polemico. In secondo luogo il carattere di complessività, di totalizzazione, no? L'anticristo è rappresentato come un totum regnum, una totalità che è nello stesso tempo religiosa e politica. E il terzo carattere è quello ovvio del rovesciamento, del capovolgimento. Partiamo dal carattere conflittuale. Dunque ho già sottolineato come lo schema intero della religione di Kant sia costruito in termini di conflitto. Ecco, però è altrettanto chiaro che il conflitto è quello dell'Aufklärung, no? Cioè lo scontro non è più lo scontro religioso confessionale, no? Quello in cui Henry Moore e Newton devono schierarsi, no? Devono fare una scelta di campo contro l'anticristo. Adesso è il lume della ragione che valuta i conflitti, e il compito dell'Aufklärung è prima di tutto di sottoporre al tribunale della ragione gli antichi conflitti religiosi. Quindi in questo senso c'è una visione conflittuale, ma non è più un conflitto in cui si inserisce un terzo mediatore, che è la ragione, il tribunale della ragione, e più precisamente quello che Kant chiama il pubblico illuminato, il pubblico colto. Allora, questo vuol dire che ovviamente c'è una riorganizzazione del conflitto, e quindi la diagnosi del falso culto diventa una diagnosi universale molto più ecumenica, vorrei dire, in senso negativo, no? Cioè il falso culto per Kant, l'illusione religiosa ha due volti. Uno è quello della superstizio, di cui parlava Lutero, Aberglaube. L'altro però è quello del fanatismo, Schwärmerei. Allora, se i cattolici sono chiaramente inclini alla superstizione, Aberglaube, i protestanti, dice Kant, sono fortemente inclini alla Schwärmerei. Quindi si distribuiscono bene le accuse. Inoltre, come abbiamo visto, la veduta di Kant non è più soltanto interna al cristianesimo, perché l'illusione religiosa e il regime clericale partono dallo sciamano dei Tungusi, no? Quindi abbiamo una visione ormai di storia delle religioni, e io vorrei dire qua, tra parentesi, che insomma la filosofia della religione, noi ne abbiamo parlato ieri, io credo che non si possa mai togliere dalla filosofia della religione moderna il fatto che essa è una critica della religione, una critica anche storica, e quindi fortemente connessa col nascere della scienza delle religioni. Io qui vorrei aggiungere soltanto una cosa che è curiosa e divertente, cioè in realtà questa ecumenicizzazione dell'anticristo era iniziata ben prima di Kant, e curiosamente era iniziata proprio al culmine della Schwärmerei inglese, perché i quaccheri, che come sapete erano l'ala estrema della rivoluzione puritana, ad un certo momento hanno dichiarato che l'anticristo è in ogni uomo, e questo lo spiega molto bene Christopher Hill nel suo bellissimo libro sull'anticristo in Inghilterra. E quindi questa tendenza era già ben presente prima di Kant, ed sarebbe qui molto interessante vedere l'atteggiamento di Kant di fronte ai quaccheri, no? Perché proprio nel conflitto delle facoltà c'è quella sezione dove Kant tratta di una pura forma di mistica nella religione, è l'appendice alla prima sezione dello Streit der Fakultäten, e Kant qui esprime la sua piena simpatia per un gruppo di separatisti o mistici, che si chiamano mistici, e Kant dice costoro sarebbero, chiedo scusa per l'espressione, dei veri kantiani se fossero filosofi. Questo gruppo non ben determinato è chiaramente un gruppo di filiazione o di affinità fortemente affine ai Quakers. Però Kant subito dice questi qua però non sono esattamente come i quaccheri, perché, e questo è interessante, si vestono in modo normale e pagano le tasse sia alla Chiesa che allo Stato. Allora vuol dire che Kant dei quaccheri considera niente affatto Schwärmer la dottrina della luce interiore, sul piano religioso è benissimo in accordo con i quaccheri, ma la Schwärmerei dei quaccheri consiste nel loro radicalismo civile e politico, consiste nella obiezione di coscienza, e questo mi pare essere un dato interessante. Però questo ci porta all'altro punto. Come ho detto prima, le figurazioni moderne del Mysterium Iniquitatis avevano questo carattere di complessività, di totalizzazione. L'anticristo è quella commistione, quel monstrum che lega insieme religione e potere. È sempre visto come una potenza, è visto come un regno, un rex. E quindi non soltanto in utero, ma anche nei moderati docenti di Cambridge, Henry Moore e Isaac Newton, questa figura dell'anticristo era fortemente drammatica, e fortemente drammatica era l'imposizione che viene fatta ai fedeli di una scelta, di una decisione, che non è razionale, è una decisione della volontà di fronte a questa totalità del male. Ora, nel tranquillo clima dell'Aufklärung, questa minacciosa totalità appare in larga misura sciolta. Perché sciolta? Perché proprio dico, la Chiesa e lo Stato sono disciolti, no? Perché ora ci sono le reciproche autonomie delle istituzioni, e soprattutto perché c'è quella mediazione di cui parlavo prima, che è quella della società etica, che non è né Chiesa storicamente determinata né Stato, è l'opinione pubblica illuminata, e gioca quindi in questo campo l'autonomia della coscienza. Questo vuol dire però che la intensità del conflitto si attenua la intensità del dissenso, per usare dei termini un po' abusati della nostra sociologia contemporanea, si potrebbe dire che ci troviamo in un mondo di complessità in cui sia i livelli di condotta dell'individuo sia i livelli istituzionali della società si sono articolati, distinti, e quindi il conflitto diventa qui meno drammatico. E infatti non è un caso che la quarta parte della religione opera una critica delle istituzioni della società etica in quanto Chiesa, ma non riguarda assolutamente lo Stato, no? Cioè lo Stato non viene coinvolto in questo. D'altra parte, per Kant, lo Stato nel felice regno di Federico II di Prussia era invece quell'elemento distaccato dalla Chiesa, e che proprio per questo garantiva la tolleranza e la libertà di coscienza. Quindi il carattere globale delle rappresentazioni del mistero iniquitatis chiaramente qui è stato ridotto. Ma uno potrebbe dire, credo con qualche ragione, che questo può essere anche considerato per l'appunto il risultato di due secoli di polemiche contro il mistero iniquitatis. Se il carattere del mistero iniquitatis è appunto quella conglomerazione perversa di potere e religione, bene, attraverso tutta la storia di questi secoli che culminano nell'Aufklärung si è ottenuto finalmente di fatto la dissoluzione di questo conglomerato anticristiano che è il Mysterium Iniquitatis, si è ottenuto attraverso il liberalismo inglese e attraverso l'Aufklärung tedesca, che sono la realizzazione del principio protestante. Questo sarà la tesi di Giorgio Guglielmo Federico Hegel. Qui non c'è più l'anticristo, può essere lasciato cadere nel passato perché c'è stata la vittoria del buon principio. Ora, la cosa interessante è che però Kant non pensa così, no? E vengo al terzo punto, cioè per Kant paradossalmente tuttavia l'anticristo era ancora possibile, no? Era una manifestazione possibile. E proprio al culmine della controversia intorno alla religione, Kant ha ancora una volta evocato la figura dell'anticristo, chiamandolo per nome, proprio nell'ultima pagina, 339 dell'edizione delle Accademie, di Das Enge aller Dinge. E qui, come voi sapete, io poi qui vorrei tirare nella discussione che spero sia durissima i colleghi Olivetti e Cunico, che proprio di questo passo si sono occupati, l'hanno citato, e in questo passo Kant fa l'apologia di un cristianesimo liberale, e usa proprio la parola liberale, e amabile. Però, dice Kant, e faccio una parafrasi perché è veramente difficilissimo da tradurre questo testo, è molto un po' ambiguo anche, potrebbe benissimo accadere, dice Kant, che nel presente il cristianesimo cessi di essere amabile e venga ad armare il suo dolce mite spirito con l'imperio dell'autorità. Sollte es mit dem Christentum einmal dahin kommen, dass es aufhörte, liebenswürdig zu sein, wenn es statt seines Santen Geistes mit gebieterischer Autorität bewaffnet würde. In tal caso, conclude Kant, poiché in campo morale non ci può essere neutralità e ancor meno alleanza di opposti principi, la avversione, la opposizione contro il cristianesimo diventerebbero un modo di pensare dominante tra gli uomini. E allora l'anticristo, che è considerato il precursore del giudizio universale, si manifesterebbe e avrebbe inizio il suo breve regno. Ora, posto che il cristianesimo sia chiamato ad essere la religione universale, se invece, al contrario, un destino avverso gli impedisse di diventarlo, allora si produrrebbe, dal punto di vista morale, la fine, ma una fine capovolta, di tutte le cose. Das verkehrte ende aller Dinge in moralischer Rücksicht. E qui mi sembra che trovi applicazione proprio la massima ermeneutica, che il principio ermeneutico che Kant aveva enunciato in quella pagina della religione che ho menzionato prima, l'apparizione dell'anticristo, eccetera, eccetera, può dinanzi alla ragione assumere il suo giusto significato simbolico. E su questo però vorrei fare un'ultima osservazione e sono giunto alla fine. Perché anche in questo passo di Das Enge aller Dinge si possono rintracciare alcune convergenze e divergenze rispetto alle figure tradizionali, alle figure moderne però, del Mysterium Iniquitatis. La prima divergenza è ovvia, no? Cioè consiste nel fatto che, diversamente da Lutero, da Henry Moore e Newton e da tanti altri, qui Kant sembra considerare l'avvento dell'anticristo piuttosto come una eventualità prettamente escatologica e non come un fatto storico già presente. E in questo senso, in modo molto paradossale, l'interpretazione che Kant fa dell'anticristo è più vicina alla tradizione ortodossa, diciamo prima del secolo della Riforma, che vede l'anticristo sempre come una figura del futuro escatologico e non una realizzazione del presente. C'è una seconda divergenza, forse meno evidente, perché qui veramente il testo è ambiguo, ma forse più importante. Io ho l'impressione che in questo passo di Kant ci sia una certa ambiguità rispetto alla identificazione dell'anticristo. Perché? Da una parte è evidente, Kant dice, se il cristianesimo dovesse di nuovo diventare armato, no? Dovesse diventare di nuovo una fede autoritaria, allora verrebbe l'anticristo. E qui siamo perfettamente in linea. Che cos'è il Mysterium Iniquitatis? È la fusione di potere e religione. Però Kant sembra pensare, no, non è chiaro questo, no? Perché in realtà dice, allora, se il cristianesimo diventasse questo, si produrrebbe nel mondo una opposizione, eccetera, eccetera, tutti sarebbero contro il cristianesimo e questo sarebbe l'anticristo. Ma allora, se così è, noi siamo un po' fuori del carattere fondamentale delle rappresentazioni del Mysterium Iniquitatis, che, come abbiamo visto, non è mai il turco, no? Nelle sue varie incarnazioni fino a quelle del nostro secolo, c'è un nemico esterno, no? Il paganesimo, no? Il turco, l'ateismo, e il Mysterium Iniquitatis è sempre dentro e al culmine del popolo di Dio, non fuori. E qui invece sembra che la causa della manifestazione dell'anticristo è sicuramente la perversione del cristianesimo, però che l'anticristo si manifesti in realtà come un nemico esterno, e quindi qua non saremo in linea con le rappresentazioni del Mysterium Iniquitatis moderno. Ora, non dobbiamo dimenticare che questo testo è stato scritto nel 1794. Io non so se sia stato scritto prima o dopo il colpo di Stato di Termidoro, che è del luglio, ma è ovvio, no? È ovvio che sia la religione sia la fine di tutte le cose sono state scritte nel 1793-94, quando l'opinione illuminata europea si trovava di fronte alla manifestazione della rivoluzione francese e si trovava di fronte all'opera di un tribunale rivoluzionario che in particolare aveva decollato la chiesa dell'antico regime. Allora io ho l'impressione che quando Kant fa vedere, no, questa minaccia, no, di ostilità nel mondo contro la Chiesa, molto probabilmente ha in mente questo. Però io penso che se Kant si fosse attenuto alla versione pienamente, come dire, coerente, no, del Mysterium Iniquitatis, allora avrebbe dovuto porsi una domanda ulteriore e più radicale. Perché se, come abbiamo visto, il Mysterium Iniquitatis è il fatto che ciò che è ottimo si capovolge in ciò che è pessimo, come diceva Lutero, allora la domanda sarebbe stata: perché nell'anno 1793-94, al culmine della civiltà europea, al culmine dell'Aufklärung, tutto questo si capovolge nel dispotismo e nel terrore? Il problema non era più quello di una deviazione del cristianesimo, ma di una nuova figura che la stessa opinione pubblica illuminata poteva diventare il terrore. Ma io penso che forse le categorie concettuali e morali dell'illuminismo e dello stesso Kant non erano le più idonee per affrontare questo nuovo mistero di iniquità. E il compito arduo si imponeva a un'altra generazione, che è stata d'altronde menzionata poco prima, un'altra generazione che intorno a quella domanda molto drammatica costruì la sua visione della storia del mondo.